I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Non si attendevano decisioni particolari ieri dalla riunione del direttivo della Banca Centrale Europea, infatti i tassi sono rimasti invariati, a zero quello principale, quello sui depositi ancora negativo a meno 0,4%. Eppure la riunione di ieri è stata importante, con la replica in diretta di Mario Draghi, presidente della BCE, alle accuse della Germania di danneggiare i risparmiatori tedeschi con la politica dei tassi a zero. Che cosa ha detto Draghi? Ha fatto capire che le critiche dei tedeschi non fermano le scelte della BCE, ha annunciato l'avvio dell'espansione del programma di acquisto di titoli che sale da 60 a 80 miliardi di euro al mese, ha ribadito che i tassi resteranno a lungo ai livelli attuali, quindi molto bassi o anche inferiori se sarà necessario. E ciò perché restano le preoccupazioni per una ripresa che è comunque frenata dalle incertezze geopolitiche e anche le incertezze per un'inflazione che continua a essere troppo negativa. Ma Draghi è andato anche oltre, sia ricordando che i vertici della BCE obbediscono alle leggi e non ai politici, sia rivendicando il fatto che negli ultimi 4 anni è stata solo la BCE con la sua politica monetaria a sostenere la crescita nell'Eurozona. Una critica evidente ai governi, anche alla Germania, tanto che la cancelliera Angela Merkel ha poi replicato che la politica monetaria non può risolvere tutti i problemi e che è legittimo discutere dei bassi livelli dei tassi di interesse. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sono settimane complicate per l'Unione Europea, schiacciata dal problema della crisi dei migranti, dal terrorismo, dalle difficoltà economiche, naturalmente dai rischi legati all'esito del referendum con cui a giugno la Gran Bretagna deciderà o meno la sua permanenza nell'Unione. In questi giorni, peraltro, anche il tema della Grecia è tornato ad agitare le acque, perché cominciano a serpeggiare dubbi sul fatto che Atene possa mantenere gli impegni presi. Se ne è parlato oggi ad Amsterdam durante l'Eurogruppo, dove si è deciso che la Grecia deve approvare un nuovo pacchetto di riforme e di tagli per 3 miliardi di euro da attuare nel caso in cui non fossero raggiunti gli obiettivi di bilancio. In cambio, i creditori, cioè l'Unione Europea, il Fondo Monetario e la BCE, darebbero il via a un piano per ridefinire le condizioni del debito greco, senza però un vero e proprio taglio del debito stesso, ma con un allungamento delle scadenze o modifiche ai tassi. Sembrano quindi, diciamo, immutate le distanze tra la Commissione Europea e il Fondo Monetario, che vorrebbe invece un taglio vero e proprio del debito di Atene, nella convinzione che il programma di risanamento non possa funzionare con il peso di un debito ormai diventato insostenibile. Che cosa accadrà? La sensazione è che alla fine una soluzione verrà trovata, perché il salvataggio di Atene è oggi ancor più importante a causa del ruolo fondamentale che la Grecia sta svolgendo nella gestione della complessa questione migranti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.